Siamo al telefono con Fabio Macciardi, genetista, docente dell'Università di Irvine in California. Sta lavorando adesso sui dati tratti dalla tamponazione della popolazione. Buonasera, intanto. Buonasera. Benvenuto su Radio Wombat. Andiamo direttamente alla questione, intanto da genetista, quindi in merito alla formazione da genetista. Quindi, vorremmo chiarire, da un punto di vista anche scientifico, di che cosa si tratta questo virus, quindi come si è sviluppato e anche un po' come sta evolvendo. Va bene, allora intanto grazie per il vostro invito che mi fa molto piacere. Da un punto di vista genetico è un evento abbastanza semplice e non molto comune, ma purtroppo forse destinato a diventare abbastanza comune nel futuro. Ed è un virus, per quanto ne sappiamo oggi, normalmente è un ospite di quelli che sono i pipistrelli, forse anche altri. Di tori, e in una situazione di densità di popolazione alta, probabilmente condizioni igieniche non ottimali e il famigerato mercato della carne di Wuhan, è successo che questo virus ha fatto quello che viene definito un salto di specie, cioè ha infettato anche un ospite che normalmente non era uno degli ospiti tradizionali, cioè nell'uomo. Per quanto ne sappiamo noi, da un punto di vista genetico, il virus, che è un coronavirus, non dà una patologia nell'ospite originale, cioè nel pipistrello nero di Tori, mentre come salto di specie si trova a allineare in un organismo non preparato a questo tipo di infezione e quindi dà una risposta, patologica del nostro sistema immunitario. Ecco, si tratta questo di un virus RNA, giusto? Si tratta di un virus a RNA, quindi un virus relativamente semplice, a singolo filamento di RNA. Il virus è composto da circa 28.000 basi azotate, che sono la sequenza dell'RNA, codifica per varie proteine che sono fondamentalmente deputate a una replicazione del virus stesso, cioè il virus in quanto tale non ha un altro obiettivo che non quello di replicarsi, però non è autonomo, quindi per replicarsi deve per forza utilizzare le ingegnerie o i meccanismi molecolari che sono delle cellule che infetta, nel caso specifico purtroppo le cellule del nostro corpo umano e le cellule del nostro sistema immunitario. Com'è che questo virus agisce? Com'è che colpisce? Beh, come tutti i virus, abbiamo detto che i virus non sono in grado di replicarsi autonomamente, quindi hanno bisogno di utilizzare il meccanismo di sintesi proteica delle nostre cellule per potersi replicare. Il virus viene in contatto con le cellule del nostro organismo. Nel caso specifico di questo virus, le cellule con cui entra in contatto, che sta passando in questo momento. Le cellule con cui entra in contatto sono le cellule dell'apparato respiratorio. Una volta che il virus è entrato nella cellula dell'apparato respiratorio tramite una specie di maniglia che apre la porta all'ingresso cellulare, utilizza i meccanismi delle nostre cellule non per la funzione a cui erano originariamente deputati, quindi non so, produrre il muco degli alveoli polmonari piuttosto che non l'energia sufficiente per poter continuare a funzionare in funzione respiratoria, ma utilizza i meccanismi cellulari del nostro organismo per replicarsi. Il nostro sistema immunitario riconosce l'estraneità di questo virus che è venuto a contatto con il nostro corpo e quindi reagisce provocando una infiammazione per eliminare questo organismo estraneo. L'infiammazione si manifesta con quelli che poi sono i sintomi clinici, quindi la prima manifestazione dell'infiammazione è dare un aumento della temperatura. E poi a seconda di dove è localizzato il virus, nel nostro caso è localizzato nell'apparato respiratorio, ci sono dei sintomi clinici che sono deputati a dare una risposta di tentativo di eliminazione di questo virus, cioè aumenta la tosse, aumentano le secrezioni polmonari e nei casi più fortunati la patologia si arresta qui, perché il nostro sistema immunitario è in grado di indurre una risposta di eliminazione del virus sufficientemente vivace in modo tale da eliminarlo. Ci sono degli altri casi, che sono i casi invece gravi, in cui o il nostro sistema immunitario non è in grado di eliminare il virus, oppure il nostro sistema immunitario eccede nella sua risposta. Queste sono due ipotesi di meccanismi che non sono ancora completamente chiari. Possiamo avere poi una patologia che è più complessa e quindi possiamo avere una polmonite, perché il virus non viene eliminato, ma addirittura invece arriva nella parte profonda dei polmoni, e la reazione immunitaria che si sviluppa in questo caso è una reazione intrapolmonare, per cui rende sempre progressivamente più difficile respirare fino a quando il virus non verrà poi eliminato. Comunque si sta parlando di patologie a livello polmonare, quindi la trasmissione del virus avviene per via aerea, giusto? La trasmissione del virus avviene tramite le goccioline di saliva che una persona infettata rilascia normalmente nell'ambiente quando parla. Tutti noi quando parliamo non ce ne accorgiamo, ma insieme con l'aria che viene emessa dai nostri polmoni o comunque i meccanismi di produzione della voce, emettiamo anche un piccolo aerosol composto da minuscole goccioline. All'interno di queste goccioline, in questo caso, allinea il virus, e quindi il rischio di contatto avviene nel momento in cui noi ci troviamo troppo vicini a una persona che ha una infezione in atto, anche nelle fasi pre-sintomatiche, quindi anche nelle fasi prima che sviluppino i sintomi clinici, e quindi rischiamo a nostra volta di infettarci. È noto che c'è una fase di incubazione che sono 14 giorni. Ma la fase di infezione viene definita fino a 14 giorni, in realtà mano a mano che abbiamo più dati sappiamo o stiamo cominciando a renderci conto che l'infezione può cominciare a essere contagiosa a partire da 2 giorni dopo che un soggetto è stato infettato, arrivare sicuramente fino a 14 giorni, probabilmente anche fino a 16 giorni. Il soggetto rimane ancora infettivo e quindi rischia ancora di ovviamente disseminare ulteriormente l'infezione, non solo nella fase conclamata di malattia, ma anche nella fase di guarigione. Quindi anche quando i sintomi clinici sono scomparsi, esiste un periodo di tempo che non sappiamo ancora quantificare con certezza, in cui il virus può ancora essere presente nella sola di queste goccioline che noi emettiamo quando parliamo o quando respiriamo, e quindi può ancora infettare le persone. In generale noi in questo momento riteniamo che una persona non sia più infettiva anche quando ha contratto la malattia, nel momento in cui i test che vengono effettuati sulla faringe e sulle mucose nasali dicono che sono negativi e quindi il virus non è più presente. Questo può avvenire fino a una settimana dopo la guarigione completa. Ok. E invece riguardo alla capacità di questo virus di modificarsi, che a quanto ho capito è cambiato molto rispetto a quello originale, ai primi casi. Allora, tutti i virus sono caratterizzati da una grande variabilità genetica, nel senso che i virus hanno una capacità di mutare molto rapida perché hanno una velocità di replicazione estremamente veloce, e quindi è come se ci fossero tante generazioni di virus, no? E quindi a ogni generazione c'è la possibilità di una o più mutazioni. Nel caso specifico di questo coronavirus, rispetto alla versione originale della sequenza che era apparsa in Cina, Wuhan, all'inizio della epidemia cinese, quindi a novembre. La versione che è in giro oggi ha delle variazioni anche notevoli, nel senso che comunque c'è una versione sicuramente presente in Nord Italia che è diversa da quella che è presente in Centro Italia, c'è sicuramente una versione o più versioni che sono presenti negli Stati Uniti di questo passo. Esistono delle zone ipervariabili del virus, esistono delle zone invece più stabili, per cui in questo momento non ci stiamo preoccupando tanto delle regioni ipervariabili, perché non sembra che sia possibile dare nessuna variazione di gravità rispetto a queste variazioni che abbiamo osservato, e ci stiamo concentrando invece su quelle che sono le sequenze stabili, perché sono quelle dove contro le quali si potrà poi produrre un vaccino. Ecco, andiamo proprio alla questione sia del vaccino sia anche dei farmaci possibili che potrebbero essere utilizzati per la terapia dell'influenza da coronavirus. State lavorando ad un vaccino? Io personalmente no, però sicuramente ci sono in giro almeno 4-5 laboratori che sono già in una situazione relativamente avanzata dello studio di un vaccino. Ci sono, credo, un laboratorio in Inghilterra, un laboratorio negli Stati Uniti, credo che ci sia qualche cosa presente anche in Italia, forse in Germania sicuramente, dove ipotesi di vaccino sono già state costruite, e in questo momento è in corso una prima iniziale sperimentazione per andare a valutare che il vaccino che veniva prodotto sia tollerato, non sia tossico, non abbia ulteriori altri problemi, e non appena questi primi test saranno completati partirà poi la sperimentazione umana. Credo che la sperimentazione umana sia già partita per delle versioni sperimentali di vaccini in Inghilterra e negli Stati Uniti. Dobbiamo vedere quanto sarà poi la risposta di protezione che questo vaccino potrà dare sulla infezione. Che tipo di vaccini stanno sviluppando? Non sono al corrente dei dettagli molecolari, ma credo che siano dei vaccini che vanno a inattivare quelle che sono alcune delle componenti stabili di questo virus, in modo tale da impedirne la replicazione. Ecco, ma solitamente tutta la procedura per la produzione e poi la commercializzazione dei farmaci prevede sì la sperimentazione su animali che la sperimentazione poi successivamente su umani, però prende un arco di tempo abbastanza lungo. È stato abbreviato oppure no nel caso del vaccino per il coronavirus? Direi che è stato accelerato più che non abbreviato, nel senso che molte delle lungaggini che ci sono nella produzione di nuovi farmaci sono molto spesso legate alle procedure burocratiche per l'approvazione, e queste procedure burocratiche per l'approvazione della sperimentazione sono state sicuramente facilitate. Dopodiché i tempi che sono invece legati alla valutazione dell'efficacia clinica del vaccino, piuttosto che non alla risposta che il vaccino può indurre nei volontari che accetteranno di essere sperimentatori sull'uomo, questi sono dei tempi che sono legati a delle caratteristiche cliniche e molecolari, quindi non possono essere accelerati più di tanto. Si parla più o meno di che tempi? Secondo i più favorevoli o i più entusiasti potremmo avere un vaccino, si ritiene entro probabilmente la fine dell'anno, un periodo compreso tra, diciamo, dopo l'estate e la fine dell'anno. Ma un vaccino che sia efficace. Poi naturalmente il problema non è semplicemente quello di trovare il vaccino, il problema è quello di produrlo in quantità sufficienti, di poterlo distribuire e di poterlo poi somministrare alla popolazione. Quindi questi sono purtroppo in questo momento un po' dei tempi difficili da stimare. Certo. E invece riguardo all'utilizzo dei farmaci, ho sentito parlare dell'idrossiclorochina, ma anche di altri tipi di farmaci, sono efficaci e anche come funzionano? Ecco, come funzionano è un bel punto di domanda, nel senso che non abbiamo molto bene l'idea di come possano funzionare e i meccanismi molecolari per cui funzionano ci sono ancora poco chiari, ma io non sono però un farmacologo molecolare, per cui sicuramente dei colleghi che sono molto più competenti e bravi di me potrebbero dare una risposta migliore. I farmaci che sono stati tentati sono un poco i farmaci che si sono dimostrati utili in altri tipi di infezioni e in altri tipi di patologie di origine virale. Per esempio, dei farmaci che sono risultati estremamente utili sono i farmaci che erano stati messi a punto per la terapia dell'HIV, quindi dell'AIDS. Altri farmaci come la idrossiclorochina e gli altri antimalarici abbiamo visto sperimentalmente che funzionano in alcuni casi, non in altri, però il motivo per cui funzionano non si riesce a capire bene. C'è un farmaco antivirale di recente produzione, che è un farmaco che è prodotto da una compagnia farmaceutica americana, si chiama Remdesivir, che sembra che sia molto promettente, e in questo caso è stato sicuramente accelerato l'utilizzo sperimentale nell'uomo, visto che aveva già superato bene tutti i test di tossicità, quindi non è un farmaco pericoloso, non è un farmaco che può durare, per quanto ne sappiamo evidentemente, dei problemi, e funziona, sembra, abbastanza bene. Una delle difficoltà è che abbiamo ancora poche informazioni su quella che è l'epidemiologia clinica di questa patologia, per cui sappiamo che ci sono dei soggetti che rispondono bene ad alcuni farmaci, altri che non rispondono bene ad altri. Dire perché questa cosa stia succedendo non è facile, tant'è che insieme con altri colleghi abbiamo messo in piedi dei progetti di ricerca sperimentale proprio per riuscire a capire come mai alcuni soggetti rispondano e altri non rispondano alla somministrazione dello stesso farmaco. Guardo anche a questo, alle variabili sui soggetti. Il virus, dalle statistiche, dai dati che vengono fuori, sembra che vada a colpire sempre più persone giovani e sempre più in modo più aggressivo. Perché succede questa cosa? Ma questo non sono sicuro che sia necessariamente così. Per esempio, aveva fatto scalpore l'altro giorno la storia di questo povero bambino di pochi anni infettato e morto in Inghilterra, poi si è scoperto che in realtà questo bambino aveva una serie di altre patologie concomitanti. Quindi quello che in questo momento sappiamo è che se una persona è sana, giovane, media età, la risposta normale del suo sistema immunitario è tale da poter inattivare il virus con pochissimi sintomi o addirittura in molti casi, che peraltro va bene per i singoli soggetti ma è un problema a livello di popolazione, senza che neanche queste persone infettate abbiano dei sintomi, quindi loro non si accorgono di essere malati, non prendono precauzioni e quindi rischiano di ulteriormente disseminare il virus. Quello che noi sappiamo oggi è che il virus tende a essere più letale, quindi ad avere delle conseguenze che sono più rischiose o gravi in persone che sono anziane, perché le persone anziane hanno una minore reattività del loro sistema immunitario, o persone che hanno delle altre patologie concomitanti di intensità grave, cioè persone che hanno, per esempio, non so, tumori piuttosto che una malattia autoimmune, piuttosto che malattie metaboliche, dove l'organismo è già sottoposto a una challenge, a una difficoltà notevole, quindi un'ulteriore infezione diventa più difficile da essere contrastata. Certo. Ci sono determinati, ho sentito dire questa cosa, quindi non sono sicuro di fare una domanda corretta, ma ci sono determinati genotipi che vengono colpiti in particolare da questo virus? Io credo personalmente di sì, nel senso che è un po' una mia distorsione professionale, però quello che noi abbiamo sempre visto è che rispetto a una qualunque tipo di malattia, non necessariamente il coronavirus, ma tutte le varie malattie, così come, diciamo, allora, Per quanto riguarda le malattie, ci possono essere delle condizioni predisponenti che dipendono da come ognuno di noi è fatto, e ognuno di noi è molto simile a tutti gli altri, ma anche un pochettino diverso. Quindi questa diversità può essere una fonte di suscettibilità per una migliore o una maggiore facilità ad ammalarsi. Nello stesso modo è sempre anche la nostra caratterizzazione genetica che ci fa essere più o meno responsivi e quindi rispondere meglio o peggio a un determinato farmaco. Quali siano però gli specifici geni che danno una maggiore o minore suscettibilità all'infezione e quali sono gli specifici geni che danno una maggiore o migliore risposta a un farmaco è qualcosa che stiamo proprio studiando in queste settimane. L'ultima domanda su questa parte, diciamo, più specialistica, più medica, riguarda l'immunità. Si è sentito parlare di immunità di gregge. È possibile che una popolazione, in questo caso mondiale, visto che si tratta di una pandemia, sviluppi un'immunità a questo virus? La popolazione mondiale può sviluppare un certo grado di immunità a questo virus e quindi può compartimentalizzare l'espressione del virus se un numero sufficiente di persone si ammalano e quindi sviluppano anticorpi contro questo virus. In generale, perché si sviluppi un'immunità di gregge, ci occorre che una parte consistente della popolazione si possa ammalare e poi possa risultare immune, e questo è un problema molto grosso da un punto di vista medico, perché noi sappiamo purtroppo con l'infezione da questo coronavirus che molte delle persone che si infettano rischiano di morire, quindi anche quei governi che avevano tentato di non far niente per prevenire la diffusione dell'infezione, sperando che in questo modo si potesse sviluppare poi un'immunità di gregge, stanno ritornando sui propri passi perché hanno visto che il rischio di mortalità è troppo elevato, quindi avrebbe generato una inutile sofferenza all'interno della popolazione. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, ma quello che volevo chiedere ulteriormente riguardo a questo è: le persone guarite vuol dire che fondamentalmente hanno sviluppato un'immunità, giusto? Esatto. Per le persone guarite sarà di fatto possibile tornare a fare la vita che facevano prima senza alcuna preoccupazione, tolto il periodo in cui saranno ancora infettive, giusto? Questo è giusto in linea di principio, sì. Le persone che hanno già sviluppato un'immunità saranno comunque suscettibili alle variazioni del virus? Cioè, visto che il virus sta cambiando molto rapidamente e visto che ci sono colaidi, virus simili ma diversi, loro saranno ancora a rischio per la contrazione di una nuova patologia? Questa è un'altra bella domanda in cui a sapere la risposta priori varrebbe 100 milioni di dollari. E posso dirle quella che è la mia ipotesi. Cioè, allora, i vaccini che si stanno cercando di costruire in questo momento non vanno ad agire sul virus in quanto tale, ma vanno ad agire sulle parti stabili del virus. Quindi se uno è vaccinato piuttosto che non ha avuto una infezione da coronavirus, la nostra verosimile e ragionata speranza è che poi possa avere una condizione di immunità che sia relativamente lunga. La esperienza ovviamente è che dipende da virus a virus. Per esempio, lei è troppo giovane per essere stato vaccinato, ma quelli della mia generazione sono stati tutti vaccinati contro il virus del vaiolo. Okay? Allora, il virus del vaiolo era sufficiente una vaccinazione fatta da bambini per essere poi considerati immuni per il resto della nostra vita. La stessa cosa per il virus della poliomielite, quindi ci sono dei vaccini che sono stati costruiti in modo tale da poter dare una immunità che è un'immunità permanente. Altri vaccini, pur essendo molto utili, tipo il vaccino per l'epatite B, ogni tanto hanno bisogno di un richiamo, quindi di una, per essere sicuri che la immunità possa persistere nel tempo. Ed esiste infine un terzo gruppo di vaccini, che sono per esempio i vaccini anti-influenzali, che dipendono moltissimo dal ceppo di quell'anno. Okay? Allora, nel caso di questo coronavirus, le nostre informazioni sono relativamente ancora poco stabili. Io personalmente ritengo che sia una situazione probabilmente simile al virus dell'epatite B, in cui la persona che sarà vaccinata o la persona che ha avuto la malattia sarà immune per un periodo di tempo medio-lungo, salvo che magari debba avere poi nel corso della sua vita ulteriori richiami della vaccinazione se per caso le immunoglobuline che le danno l'immunità diminuiscano sotto un determinato livello soglio di protezione. Perlomeno questo è quello che speriamo. Ecco. Ok. Ora vorrei fare alcune domande sul lavoro che sta svolgendo qua in Italia, perché se non sbaglio lei è tornato in Italia come volontario per dare una mano e non è stato immesso negli ospedali a lavorare per vari motivi e dunque sta facendo un lavoro di elaborazione dei dati, giusto? Esatto. Intanto vorrei sapere dove, per chi sta elaborando questi dati e di quali dati si tratta, da dove arrivano. Ma i dati sono quelli che sono disponibili per tutti, che sono i dati della protezione civile rilasciati con il bollettino di ogni giorno, più i dati delle province, delle varie regioni italiane, ovviamente io mi sto occupando più delle province lombarde che di altre province, e poi quello che stiamo cercando di ottenere è i dati anche a livello di singolo comune e poi ancora a livello delle singole zone, dei singoli comuni, cioè un comune come Milano per esempio, che ha una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, vorremmo tanto avere i dati a seconda del, perlomeno di Milano Sud, Milano Nord, Est e Ovest, se non proprio addirittura dei quartieri, però questo ci rendiamo conto che non è una cosa molto semplice. I dati che noi abbiamo a disposizione o che io ho a disposizione per poter fare le mie analisi sono condivisi con il Dipartimento di Medicina dell'Università Humanitas a Milano e quello che stiamo cercando di fare è di avere dei modelli previsionali su quello che è l'andamento della patologia. I bollettini o i dati che vengono rilasciati insieme con i bollettini della protezione civile non sono sempre di facilissima lettura. Quello che è interessante andare a vedere ed è il dato forse più, o due dati che sono più importanti per noi, sono il numero dei nuovi casi giorno per giorno, che viene in relazione alla media del numero dei nuovi casi nei 3 giorni o nei 7 giorni precedenti, perché ogni giorno ha una piccola variazione che può essere una variazione statistica, una variazione di campionamento, una variazione della disponibilità delle informazioni alle 6 del pomeriggio e via di questo passo. Per cui andando a stimare l'impatto che i nuovi casi hanno rispetto alla media dei 3 dei 7 giorni precedenti, lei può vedere se la curva di contagio è in crescita, se la curva di contagio è stabile o se la curva di contagio è in discesa. Tutti questi si basano sui tamponi che sono risultati positivi, quindi dipende strettamente da quanti tamponi vengono fatti. Certamente, dipende da quanti tamponi vengono fatti e dall'affidabilità dei tamponi, e noi speriamo che adesso la situazione migliori con l'introduzione dei test tematici, che dovrebbero essere più facili, più semplici, più stabili e più rapidi. Ecco, ok. Tutti questi dati voi riuscite a confrontarli anche con quelli delle altre regioni, oltre che tra le province? Sì, infatti c'è una certa variabilità ovviamente a livello regionale. Tutte le regioni in questo momento stanno indicando sulla base di questi dati che, ripeto, è il numero dei nuovi casi che emergono ogni giorno rispetto ai nuovi casi che sono emersi nei 3 o nei 7 giorni precedenti, stiamo vedendo che siamo arrivati a verosimilmente un picco e in alcuni casi è iniziata anche una via di discesa. Se poi lei insieme con i dati osservati costruisce anche delle curve di predizione teorica e quindi vede in base a delle ipotesi statistiche o epidemiologiche se il trend è in crescita o in diminuzione, fortunatamente tutti i dati che stiamo analizzando ci dicono che è in diminuzione anche nelle situazioni più complesse che potevano essere quelle di Bergamo o di Brescia. Questo dato non è sempre confortato da una anche riduzione del numero dei pazienti che purtroppo soccombono e muoiono, perché questi pazienti riflettono ancora la condizione epidemiologica di 10 giorni fa, quindi noi vediamo prima la diminuzione dei nuovi casi e solo in seguito vediamo anche la diminuzione del numero dei morti con le curve che cominciano a scendere anche in questo caso. Ecco, in tutti questi dati, naturalmente essendo elaborati sulla base dei tamponi, non vi sono le persone asintomatiche. Esattamente, noi non vediamo né le persone che sono state contagiate ma che non hanno sintomi, in moltissimi casi non vediamo nemmeno le persone che hanno una sintomatologia lieve, perché normalmente se uno ha la febbre e un po' di tosse ma non ha altri problemi gravi, telefona al medico, telefona ai responsabili della protezione civile, i quali valutano la situazione e poi normalmente fino a questo momento hanno detto bene, lei è a rischio e verosimilmente ha una infezione lieve da coronavirus, se ne stia a casa, non esca e aspetti 14 giorni. Poi ovviamente questi pazienti vengono seguiti giornalmente con contatti dei medici di famiglia piuttosto che non contatti telefonici dei medici responsabili della protezione civile, però solamente a una pochissima percentuale di questi soggetti viene poi fatto il tampone, no? Perché non ce ne sono sufficienti. Ecco, ma proprio sui tamponi, qual è il problema della somministrazione dei tamponi? Ce ne sono pochi e quindi vanno risparmiati, oppure è complessa l'analisi del tampone? Perché di per sé è un pezzo di ovatta sterile. Il tampone sì, è praticamente un pezzo di ovatta sterile, però poi dopo quello che lei deve fare è l'analisi per vedere la presenza del virus. Allora io non sono esperto di medicina di laboratorio, per cui non so dire dove possono essere le eventuali difficoltà, però la risposta a un tampone, all'analisi di un tampone richiede comunque qualche ora. Per cui se lei mette insieme il numero dei tamponi che vengono fatti in una giornata in una città come Milano, i laboratori che sono in grado di analizzare i risultati dei tamponi, eccetera, eccetera, le conto che non si riesce ad andare al di là di un certo numero di tamponi per giorno. Ci sono delle tecniche che sono più rapide, ci sono delle tecniche specificatamente molecolari, ma non sono standardizzate, quindi non possono essere utilizzate come test diagnostico o come test validato. Verosimilmente si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per poter andare a vedere dei test che non sono eseguiti solo sul tampone, ma vengono eseguiti su una goccia di sangue, e quindi questi dovrebbero essere molto più rapidi, perché nel giro di pochi minuti può sapere se è stato infettato piuttosto che non. Ecco, nella gestione di un'epidemia o di una pandemia addirittura, è efficace questo screening parziale della popolazione e dei possibili infettati? Per screening parziale che cosa intende? Cioè il fatto che vengano fatte un numero limitato di tamponi? Da quello che ho potuto leggere, ho visto che le regioni si sono organizzate in modo indipendente l'una dall'altra, e quindi ci sono in alcuni luoghi, ad esempio il Veneto, sono stati effettuati i tamponi a tappeto, altre regioni come l'Emilia Romagna ad esempio stanno proprio andando a ricercare quelle persone che sono a rischio, che anche seppur asintomatiche, e vanno ad effettuare i tamponi. Quindi, ora, questo ad esempio succede in alcune regioni sì, in altre regioni no. Però questa mancanza di coordinamento, mi corregga se mi sbaglio, a me sembra di vedere una mancanza di coordinamento sia all'interno del sistema sanitario nazionale, che poi è federale, tra le regioni, sia fra gli stati, può portarci a dei risultati positivi o sarebbe necessario invece uno sforzo collettivo unitario? Guardi, io ritengo che sarebbe importante, necessario e fondamentale uno sforzo collettivo unitario. Senza questo arriveremo semplicemente ad avere tante realtà diverse che daranno dei risultati diversi. Sicuramente la possibilità in questo momento teorico più che non pratica su grandi numeri, di fare il test a tutta la popolazione è vincente, perché l'abbiamo visto, cioè abbiamo visto dai primi casi delle prime zone rosse, no? Che erano Voe Euganeo in Veneto, e credo in parte Codogno a Milano, ma soprattutto Voe Euganeo, che una volta che la popolazione è stata blindata ed è stato impedito di muoversi, qua vabbè, ci sarebbero molte considerazioni da fare, ma le mettiamo da parte. Potendo fare il campione, il test a tutta la popolazione e quindi identificando non solamente gli ammalati, ma identificando anche i portatori sani, diciamo, quelli che erano stati infettati ma non si ammalavano o si ammalavano in modo molto lieve curandoli oppure segregandoli rispetto a tutti quelli che erano i sani, la infettività è passata nel giro di poche settimane, nel giro di 3 settimane, da avere il 4-5% della popolazione infettata ad avere lo 0,2% della popolazione infettata. Quindi sicuramente un successo notevole. Se fosse possibile fare un test di screening sulla popolazione generale con gli stessi criteri, noi saremo in grado non solo di individuare anche gli ammalati lievi, ma anche i portatori sani, e saremo in grado di separarli per un periodo di 10 giorni, 14 giorni, da quelli che sono invece i potenziali soggetti che possono essere contagiati, che sono stati ancora contagiati. E credo che saremo in grado, nel giro di un tempo estremamente breve, di contenere la diffusione del virus. Ecco, ora hai citato dicendo la blindatura delle città, dei paesi, delle regioni, poi è vero che richiederebbe un discorso molto lungo che non stiamo qua sicuramente a fare, però una cosa io vorrei chiederla a lei in particolare, visto che è una persona che lavora con i dati, e è se le misure che sono state messe in atto fino ad oggi, e cioè quella di progressiva limitazione delle libertà delle persone, anche dai dati, seppur con questo delay, ritardo di 10 giorni rispetto quanto si registra sui dati e quanto invece avviene nella vita reale, si vedono dei risultati da un punto di vista statistico, e parlo soprattutto riguardo ai principali scaglioni che sono state fatte, cioè la chiusura delle scuole, la chiusura della Lombardia, la zona rossa in Lombardia e Veneto e Piemonte, zona rossa in tutta Italia, la parziale chiusura delle fabbriche anche. Allora, la risposta è sì. Nel momento in cui tu fai un'analisi dei dati epidemiologici, che sono anche quelli rilasciati dalla Protezione Civile, e vedi che cosa succedeva prima del blocco dell'Italia, prima del 14 di marzo, e dopo il 14 di marzo, già a pochi giorni dopo il blocco, e quindi con quello che viene definito il distanziamento fisico, io preferisco definire distanziamento fisico che non distanziamento sociale, comunque insomma tutti a casa ed evitare i contatti, è iniziata una fase completamente diversa in cui non solo la curva di diffusione dell'infezione è rallentata, ma poi siamo arrivati a un plateau, in questo momento stiamo vedendo una discesa. Questo perché, non avendo ancora il vaccino, non sapendo quali terapie sono efficaci o no, l'unico modo per contrastare l'infezione è quello di evitare che l'infezione si diffonda e per contagio diretto, e quindi l'unico modo per evitare il contagio diretto è distanziare le persone l'uno dall'altro, no? Per cui secondo me è molto utile, sarebbe bene che tutti lo praticassero in una maniera il più rigoroso possibile, e quindi è sicuramente un procedimento che è estremamente utile ed è l'unico procedimento che in questo momento ci ha permesso di contenere la diffusione dell'infezione. Quello che non mi piace di tutta questa situazione è la poca chiarezza e la conflittualità delle informazioni che ci vengono date da, virgolette, gli organismi che sono deputati a divulgare e a condividere con noi l'informazione. Cioè, rimanere a casa non è non lavorare, rimanere con te, con contenuti in uno spazio che è più o meno piccolo, non poter andare in giro, eccetera. Sono dei sacrifici che sono estremamente importanti e che hanno sicuramente un costo, no? Per cui almeno uno li fa, ma io mi aspetterei che venisse valorizzato di più, anche proprio come tipo di informazione che ci viene poi restituita, l'idea di dire sì, funziona bene in questo modo qua, dobbiamo andare avanti ancora per 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, non lo so, però che qualcuno ce lo dica in sostanza, però, perché altrimenti l'impressione è che si vada un po' alla giornata. Allora, non è vero che si va alla giornata, perché ci sono dei modelli previsionali. Bisognerebbe che questi modelli previsionali venissero un po' più condivisi, nel senso che io non credo che in una settimana noi saremmo fuori, però secondo me nel giro di 4 settimane potremmo avere una situazione decisamente molto, ma molto più affrontabile che non oggi. Bisogna prepararsi a questi eventi, perché poi non è che uno potrà o si potrà dire beh, adesso tutti fuori, si riprende come prima, no? Non si riprende affatto come prima, ma bisognerebbe organizzarsi per tempo. In che modo ci si può organizzare per la seconda fase di questa epidemia? Ma io credo che una delle cose importanti sarà mantenere quelle pratiche che sarebbero dovute essere già comuni prima, e quindi sono delle pratiche molto banali e molto semplici, quindi quello di delle pratiche di igienico-sanitaria, come si diceva una volta, quindi estrema pulizia, disinfezione, lavarsi le mani e cose di questo tipo, anche perché il virus sì, sarà sensibile ai farmaci, sarà sensibile a tutto quello che tu vuoi, il virus è sensibilissimo al sapone, qua basta lavarsi bene le mani e qualunque contatto con qualunque virus viene inattivato immediatamente. L'altra cosa che sicuramente bisognerà mantenere per un certo periodo di tempo, almeno fino a quando non ci saranno delle terapie specifiche o dei vaccini che saranno stati distribuiti in maniera sufficientemente diffusa tutta la popolazione, sarà quello di continuare a mantenere un certo grado di distanziamento sociale, oppure di evitare in ogni caso gli assembramenti grossi, no? Quindi io credo che la situazione più difficile sarà non tanto che ciascuno di noi riesca a farsi 4 passi piuttosto che andare a correre o riprendere ad andare in bicicletta, credo che la situazione più difficile sarà per quelle istituzioni che normalmente prevedono che ci sia un insieme di gente tutti insieme, no? Andare a un bar, andare al ristorante, andare al teatro, andare al cinema. Certo. Non so, credo che per esempio le Ferrovie dello Stato oppure gli aerei abbiano già cominciato a organizzarsi in questo modo, no? Quindi sicuramente se tu prendi, quando io sono ritornato in Italia, l'Alitalia ci ha fatto volare avendo comunque sempre un sedile libero di fianco, no? Cioè invece che essere seduti tutti uno di fianco all'altro, c'era una persona, un posto libero, una persona, un posto libero e via di questo, in modo tale che si cercava di mantenere un minimo di distanziamento sociale. Sarà la cosa da fare anche dopo? Sì, sicuramente sì, per un certo periodo di tempo. Si potrà andare avanti sempre così? Non credo, però come si potrà andare avanti dipenderà anche dallo sviluppo progressivo dei farmaci, dei vaccini, quindi da una situazione di contenimento puramente ambientale e comportamentale a una situazione più gestibile da un punto di vista previsionale, medico. Poi un'altra cosa che non sappiamo, ma che molto spesso è successo, è che i virus che sono venuti a contatto con l'uomo, generalmente, non tutti ovviamente, ma in una buona percentuale di casi, progressivamente hanno perso una gran parte della loro virulenza, e quindi può anche essere che noi arriveremo magari ad avere un coronavirus che assomiglierà sempre di più a quella che è l'influenza stagionale. E quindi sarà una situazione sicuramente da tenere sempre sotto controllo e da farsi vaccinare, ma non così drammatica come queste ultime settimane. Allora, senti, vorrei farti una domanda riguardo ai presidi che vengono utilizzati, perché alcune regioni, tra le quali la Toscana, hanno emesso un'ordinanza per l'obbligo dell'utilizzo della mascherina in qualsiasi situazione all'esterno della residenza privata. È una misura che ha senso? Voglio dire, le mascherine sono dei presidi che realmente sono utili per il contenimento della diffusione? Ma guarda, allora la mascherina sicuramente una sua funzione ce l'ha, ok? Poi dipende da mascherina a mascherina, però direi tutte le mascherine in questo caso, visto che devono contenere delle goccioline di aerosol di saliva, funzionano abbastanza bene, e quindi io credo che l'indicazione di utilizzare una mascherina sia un'indicazione preventiva che ha un certo senso. Dopodiché, e quindi non mi sento di dire che non va bene. Dopodiché, secondo me bisognerebbe anche utilizzarla con un minimo di zucca, cioè se io esco per portare a spasso il cane piuttosto che perché devo andare dal giornalaio o dal tabaccaio, sono in giro per la strada, non c'è in giro nessuno, beh, lì a quel punto secondo me la mascherina, che io la metto o no, è indifferente. La mascherina ha sicuramente una grandissima funzione, dovrebbe essere portata da tutti nel momento in cui noi entriamo in contatto più ravvicinato con altre persone, quindi se io entro a fare la spesa al supermarket piuttosto che se entro dal tabaccaio, dal giornalaio, a quel punto avere la mascherina mi sembra il minimo. Bene, allora ultimissima domanda, giuro, riguardo un po' al paese, agli Stati Uniti, al paese dove lavora. Cosa sta succedendo? Vediamo dei grafici che sono in impennata continua e segnano veramente decine e decine di migliaia di nuovi contagiati al giorno, in modo veramente anche diverso rispetto agli altri paesi, sia europei che dell'Estremo Oriente. Cosa sta succedendo? Sta succedendo un bel casotto, lo so che non si dovrebbe dire, ma so. Perché? Perché la situazione degli Stati Uniti è una situazione complicata, cioè nel senso che il governo federale non può dire ai singoli stati che cosa devono fare, quindi poi sono i singoli stati che prendono le misure precauzionali e c'è anche lì lo stesso scoordinamento, mancanza di coordinamento che vediamo qua in Europa, no? Per cui ci sono delle situazioni o degli stati che sono stati molto più attenti, non so, California, New Jersey, lo stato di Washington, dove c'è Seattle, che hanno dato un lockdown simile a quello che abbiamo noi qua in Italia molto precocemente e dove il numero dei casi è relativamente contenuto vuol dire che comunque non so, ci sono sicuramente un certo numero di ammalati, cioè ci sono sicuramente un certo numero di casi gravi, ma non è una situazione così drammaticamente esplosiva come quella che è successa per esempio a New York, dove secondo me il lockdown è stato fatto probabilmente un po' tardi e dove soprattutto però la densità di popolazione, quindi quante persone abitano per chilometro quadrato, è altissima. Quindi nel momento in cui tu hai tantissime persone che abitano in grandissime città dove c'è un deciso livello di povertà, dove comunque le mascherine te le sogni perché non ci sono mascherine sufficienti da dare a tutti, allora il rischio di infezione è altissimo ed è quello che stiamo vedendo che sta succedendo a New York. La stessa cosa è successa in Louisiana, New Orleans, dove il lockdown è stato dato molto tardi. Questi hanno fatto in piazza e nelle strade il carnevale del martedì grasso e una settimana dopo è esplosa un numero di casi che era assolutamente altissimo. Mi sto chiedendo che cosa succederà nelle prossime 3 settimane in Florida, dove il lockdown è stato dato domenica. Quindi c'è una situazione che è differente negli Stati Uniti a seconda dello Stato, è differente a seconda che tu sia in una grande città, perché in questo momento le situazioni più gravi sono a New York, città, non Stato, a Chicago, a Detroit, a New Orleans e credo forse a Pittsburgh, ma non sono sicuro. Mentre altre grandi città come Los Angeles, in California, piuttosto che non San Francisco, in questo momento non sembra che abbiano un numero di casi troppo elevato, ma bisogna ricordarsi che la densità abitativa, cioè Los Angeles per esempio è una città grandissima, no? Hai 10-11 milioni di abitanti, però è suddivisa su un territorio altissimo, non esistono grandi caseggiati ma tante piccole casette e quindi la densità di popolazione è più bassa che non a New York e quindi in questo modo la diffusione dell'infezione è più complicata o più difficile o è meno facilitata. E poi immagino anche che il sistema sanitario statunitense non sia proprio pronto a ricevere, ad accogliere un'emergenza tale. No, il sistema sanitario statunitense non è un granché, nel senso che anche dalle classifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità i sistemi sanitari migliori sono quello italiano, quello francese, quello tedesco e purtroppo il sistema sanitario degli Stati Uniti è a 40°-50° posto perché loro hanno una grande tecnologia, hanno grandi finanziamenti, hanno grande tutto, però è un sistema che non è un sistema così diffuso come il nostro, è un sistema fondato sulle assicurazioni private e quindi all'inizio di questa pandemia il dramma era che per esempio addirittura alcune assicurazioni chiedevano il rimborso del test agli ammalati. Quindi sai, il problema è che se tu ti devi pagare il test o i soldi ce li hai o non ce li hai, no? Se non ce li hai perché sei povero o perché non te lo puoi permettere in quel momento lì per qualunque motivo, non fai il test e questo va a discapito non solamente tuo, ma a discapito di tutti, perché poi se il tuo test fosse stato positivo forse ti avrebbero potuto o curare o isolare e invece non avendo fatto il test tu sei andato in giro e hai disseminato l'infezione. Questa è una delle grandissime contraddizioni del sistema sanitario americano, grandissime possibilità, una gestione assolutamente veramente molto scarsa, ecco, patetica. Ecco, ma tornando alla questione dei dati, voi avete la possibilità di confrontarli naturalmente con i dati di altri paesi, e come fate però a tenere insieme i dati di paesi che hanno sistemi sanitari così diversi? Cioè, ha senso un confronto? Beh, a livello epidemiologico, sul numero dei nuovi casi, il numero purtroppo dei decessi, il numero dei casi gravi e il numero totale dei casi, sì, perché sapendo che non c'è nessun sistema perfetto, perché come dicevi tu durante questa nostra chiacchierata, non becchiamo tutti i soggetti, no? Becchiamo solamente quelli gravi, però questa è una situazione che più o meno hanno tutti e quindi i dati non saranno super confrontabilissimi, però in generale puoi fare un confronto. Gli stessi Stati Uniti, ci sono degli articoli molto belli che appaiono regolarmente ogni giorno sul New York Times, confrontano l'andamento della loro epidemia utilizzando proprio come termine di riferimento quello che è successo in Lombardia. e quindi loro vedono, per esempio, rispetto a noi, se tu vedi questi grafici del New York Times, vedi che la Lombardia in effetti è veramente in discesa sul numero dei nuovi casi, tu vedi invece le curve di salita verticale di New York, Detroit e Chicago, e insomma è molto preoccupante.